Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, siamo qui con voi e per voi. In regia la parte tecnica abbiamo Giorgio Matè, in redazione Laura Vanossi. Sentiamo insieme il sommario di oggi. Trattamenti termali, le indicazioni e i benefici confermati dalla scienza. Happy Hours, una moda piacevole, ma attenzione agli effetti collaterali. La ricerca sulle cellule staminali passa anche dal pancreas. Medici in prima linea, buone notizie dall'Aquila. Bene bene, oggi si parte, destinazione terme. Ci collegheremo con tanti esperti che ci faranno conoscere i benefici delle terapie termali per aiutarci a scegliere il trattamento su misura per noi. Quindi approfittatene se state cercando un modo piacevole e naturale per rigenerarvi, se volete fare scorta di benessere. Le terme sono anche e soprattutto questo, ma chiamateci anche per conoscere l'effetto protettivo e preventivo e quindi terapeutico dei diversi trattamenti che oggi vengono proposti nei centri termali. In studio qui con me Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Starbene, il mensile Mondadori che ogni mese viene a trovarci. Alessandro, ciao, benvenuto. Cara bentornato. Nicoletta, buongiorno. E che tra l'altro nel numero in edicola invita proprio le sue lettrici a sfruttare le proprietà delle acque termali per curare alcune infiammazioni delle vie genitali. Esatto. Dimmi Alessandro. È proprio così, Nicoletta, nel senso che noi siamo rimasti colpiti da quante possibilità ci sono, oltre alle cure tradizionali e in appoggio ad esse, per quanto riguarda malattie molto diffuse. Si va dalla famosissima candida, ma anche a infiammazioni delle tube, quindi a situazioni che possono in qualche modo interferire con la fertilità. E quindi abbiamo cercato di fare un indice, diciamo, delle stazioni termali, che sono veramente tantissime in Italia, sono un bene prezioso, inestimabile. E devo dire che proprio dobbiamo riscoprirle, perché anche da un punto di vista scientifico, perché adesso iniziano a uscire degli numerosi studi molto interessanti e che guardano soprattutto dall'estero, e quando ci guardano dall'estero vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto, perché noi parliamo, come dire, sempre ci parliamo sempre un po' male addosso, però devo dire che ogni tanto veniamo ammirati dagli altri e allora diciamo forse. Intanto, se volete parlarne con noi, 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Diceva Alessandro, questo sarà uno dei temi che riprenderemo, uno dei tanti che affronteremo nel corso della trasmissione insieme ad altri, perché con i nostri esperti parleremo anche di disturbi articolari e muscolari, e per questo ci affideremo alla dottoressa Antonella Fioravanti dell'unità operativa complessa di reumatologia al Policlinico di Siena. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Dottoressa, ci anticipi brevemente i disturbi articolari e muscolari che trovano giovamento alle terme, che sono confermati anche dalle ricerche? Ma ringrazio innanzitutto il dottor Pellizzari, perché ha detto delle bellissime parole nei confronti delle terme e anche nei confronti di chi come me si adopera per diciamo qualificare sotto il profilo scientifico, perlomeno ci proviamo, questo patrimonio italiano. Io vorrei sottolineare che naturalmente le terapie termali devono essere viste alla stregua di qualsiasi tipo di trattamento, come è il trattamento farmacologico, e come tale quindi anche esse hanno delle precise indicazioni, ma anche delle controindicazioni. Tale possibile indicazione nell'ambito naturalmente delle patologie di cui mi occupo, quindi delle malattie reumatiche, quelle che trovano un sicuro giovamento nel trattamento termale sono rappresentate dalle malattie che hanno un andamento cronico, malattie con scarsa o assente componente infiammatoria, e per esempio l'artrosi, sì. I reumatismi extraarticolari, quindi i reumatismi caratterizzati da notevole contratture muscolari, le periartriti di spalla, le tendiniti, purché naturalmente non in fase infiammatoria, oppure per esempio la lombalgia cronica. Diversamente, queste terapie non sono indicate o addirittura possono essere dannose in forme come le artriti o le connettiviti, dove possono provocare una riaccensione della malattia. E qui vedremo qual è poi il ruolo importante del medico che indirizza il paziente alle terme. Penso che affronteremo il problema in seguito. Ma sicuramente un ruolo fondamentale. Ma io vorrei salutare anche il nostro secondo ospite, che è il dottor Fausto Bonsignori, medico della Scuola di Specializzazione di Idrologia Medica e Clinica Termale all'Università degli Studi di Pisa. Dottore, bentornato e buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, dottore, io vorrei approfittare di lei per parlare di una branca del termalismo che è la talassoterapia. Il nome rimanda al mare e l'acqua di mare, sappiamo, si può considerare la più completa acqua minerale esistente in natura, associata poi al clima, alla sabbia. Insomma, questo mix magnifico è veramente un modo per rigenerarsi, ma anche per ritrovare energia, per svolgere davvero tante funzioni importanti per la nostra salute. Dottore. Certo, la talassoterapia è una metodica veramente straordinaria, poco conosciuta ancora in Italia, ma molto conosciuta e praticata per esempio in Francia, sì, che è stata la culla della talassoterapia moderna, ma anche in altri paesi dell'Europa come nel resto del mondo. La caratteristica della talassoterapia, che è appunto una branca della medicina termale, è quella di avere molti mezzi a disposizione, avere appunto la climatologia marina, quindi il beneficio che dà il clima marino, il beneficio che possiamo trovare da tutti i mezzi che provengono dal mare. Quindi è una cura naturale, una cura che rispecchia pienamente i principi delle cure termali. L'acqua di mare è l'elemento principe della talassoterapia, che come lei diceva appunto è l'acqua minerale più completa in natura, ma non dimentichiamo anche la sabbia, sì, le sabbiature, la cosiddetta psammoterapia, un nome un po' difficile ma significa sabbiature, ma non dimentichiamo anche i fanghi, che in questi casi, nel caso della talassoterapia, si chiamano limi, sì, e non dimentichiamo neppure le alghe, che hanno uno straordinario potere sulla pelle anche per un'azione di ringiovanimento, di antietà. Quindi la talassoterapia è una moderna terapia termale, una branca della terapia termale che occupa tanti spazi per la nostra salute, quindi si può utilizzare sia nella prevenzione, sia nella cura, sia nella riabilitazione, come del resto tutto il termalismo. Certo, e di questo parleremo approfonditamente insieme ai nostri esperti, e intanto io vi invito a intervenire in trasmissione 800 24 0024. Se siete stati alle terme, raccontateci i benefici che avete ottenuto. Se invece magari di andare alle terme vi abbiamo messo la voglia, fatevi proprio aiutare dai nostri esperti a trovare il trattamento su misura per voi. Una mela al giorno. E dalle terme passiamo ad un appuntamento che è diventato quasi un rito quotidiano, l'aperitivo dopo la giornata lavorativa. È un'occasione per rilassarsi, staccare la spina, incontrare gli amici, insomma chiudere un po' la giornata. Ma occhio, lo sappiamo bene, a quello che si mangia. Spesso magari si salta il pasto di mezzogiorno, Alessandro tu lo sai bene, quindi si arriva a questa ora dell'aperitivo affamati, si mangerebbero le gambe del tavolo. Ma a ricordarcelo è tornato a trovarci il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Professore, buongiorno. Eccoci qua, ci si ritrova. Non solo di influenza si parla, vero? Non ci ha dato quelle grandi soddisfazioni, anche se la coda di influenze, simili influenze di questo periodo, comincia, è stata bella infastidente, con forme piuttosto diffuse e frequenti, anche se meno pesanti della vera influenza. E quindi è contento, professor Pregliasco? Il lavoro c'è. Senta, professore, allora, dato che l'influenza ci ha dato finalmente una tregua, ci accaniamo, ma ci accaniamo, è il caso di dirlo, siamo un po' morbidi, sull'happy hours. Insomma, questo appuntamento che piace, devo dire, si diceva piace molto ai giovani, ma io quando mi trovo con le amiche vedo che non piace solo esclusivamente ai giovani. È trasversalissimo. Direi. Ma un momento di vicinanza, di momento di confronto, di togliersi dallo stress appunto della giornata, ma dobbiamo considerare gli aspetti salutistici, sia su che cosa beviamo, quanto beviamo, ma poi anche quello che mi interessa di più e quello di cui stiamo facendo valutazioni è il problema igienico come tale della presentazione e del rischio quindi di rovinarci poi i giorni successivi dopo un momento tranquillo e sereno, insomma, quindi roviniamo, o meglio, non vogliamo rovinare, ma porre l'attenzione. Allora andiamo a prendere un happy hour insieme con il suo occhio clinico, professor Pregliasco. Abbiamo detto moderazione assolutamente in quello che si beve, in quello che si mangia, soprattutto se ci sono persone che magari amano passeggiare con un bicchiere di vino, quindi fate i calcoli adeguati, ma occhio all'igiene. Quali sono i punti critici, professore? Sicuramente tutti quelli quegli alimenti che non subiscono il trattamento termico e quindi il caldo che è sterilizzante, o che comunque se l'hanno subito poi rimangono a lungo a temperatura ambiente, perché i microrganismi degli alimenti crescono in quella fascia di temperatura che va dai 5 ai 50 gradi, quindi non in frigorifero e non sulla fiamma, sì. E possono quindi, a seconda del tempo che passa dal momento della cottura o della preparazione del lavaggio, avere cariche batteriche notevoli, e quindi è importante valutare. Non è facile, perché poi l'alimento anche contaminato non altera la sua caratteristica organolettica, quindi non è un alimento dato a male, ma un alimento che insieme a quanto andiamo ad assumere porta con sé spesso cariche batteriche notevoli, soprattutto anche legati all'incuria, diciamo alla disattenzione degli utilizzatori, perché il classico, come dire, ciotola con patatine o altri snack, proprio grazie a questo continuo toccare di questi prodotti diventano un ricettacolo davvero di germi, organismi variegati, sia quando c'è, ma anche e soprattutto microrganismi gastroenterici. Senta, professore, fin qua il professore, il medico, ma lei quando va a prendere l'happy hour, perché lo andrà sicuramente anche lei, che cosa mangia? Che così facciamo prima? Ci segniamo le cose che mangia lei e ci dia il buon esempio. Quindi stiamo lontani da patatine, noccioline, tutte le cose che dove ci si mette le mani dentro. Beni alimentari interessanti, quei prodotti, per esempio le paste tenute al caldo, però deve essere questa la verifica di un mantenimento della catena del caldo, quindi quei prodotti che spesso è con un'attenzione e con una sollecitazione ai gestori dei sistemi di igiene, quindi piatti monouso, posate monouso, ma anche qui fare attenzione a come sono disposte e a rilanciare, a scegliere quegli esercizi dove questi aspetti igienici di pulizia e di ordine alla fine fanno vedere un'attenzione anche all'aspetto igienico. Infatti, una mia amica dice sempre: fate un salto in bagno nella toilette di un locale pubblico e vi accorgete se è pulito lì, vi dà anche una garanzia di come vengono preparati poi gli alimenti. Professore, concorda? Assolutamente sì. Va bene, professore, io la ringrazio per essere stato con noi, abbiamo preso nota, intanto buona giornata e ci sentiamo presto, non per l'influenza. Non per l'influenza, arrivederci a tutti, buona giornata. Pronto soccorso. Acque, fanghi, ma anche clima, sabbiature e alghe, la natura proprio ci mette a disposizione generosamente tutto il suo sapere e la sua energia per aiutarci a stare bene, e insieme a noi oggi abbiamo tanti esperti pronti a farci proprio da guida in questo percorso di benessere che si gioca tra la prevenzione e la cura. Abbiamo in linea con noi il dottor Fausto Bonsignori, la dottoressa Antonella Fioravanti, Alessandro Pellizzari è in studio con me. Darei subito la parola ai nostri ascoltatori, ci chiama Roberta da Roma, 824 0024. Benvenuta Roberta. Buongiorno a tutti. Volevo sapere, io ho 39 anni e mi è stata diagnosticata lo scorso anno la BPCO, bronchite polmonare cronico ostruttiva. Sì. Volevo sapere se ci sono rimedi termali che possano essermi utili anche in termini proprio di regressione di questa malattia. Grazie Roberta. Dottor Monsignori. La bronchite cronico ostruttiva è una delle indicazioni principali dei trattamenti termali. Naturalmente, come in tutte le malattie croniche di questo tipo, esistono delle fasi di riacutizzazione o delle fasi di acuzie. In quel caso la terapia termale è controindicata, mentre è indicata nella fase di stabilizzazione e nella fase di subacuta. Quindi ci sono numerose stazioni in Italia dove ci sono acque salsopromoiodiche o acque anche sulfuree, anche se questo negli ultimi tempi è un po' contestato, l'utilizzo delle acque sulfuree in questi casi, che offrono appunto trattamenti specifici anche per un'azione di prevenzione, ma in questo caso la prevenzione va intesa come prevenzione secondaria. Cioè, cosa voglio dire? La malattia già esiste, il problema già esiste, e quindi la prevenzione secondaria sono tutte quelle norme che mettiamo in campo affinché le riacutizzazioni siano sempre più lontane e siano sempre più meno importanti. Quindi fare in modo che le complicanze future della malattia si presentino o mai o più tardi possibile. Quindi è sicuramente un elemento importante la terapia termale nelle forme di bronchite cronica, come diceva la signora che ci ha chiamato prima. E le acque più indicate sono quelle salsobromoiodiche, mentre la ricerca sta ancora valutando quelle sulfuree. Salsobromoiodiche, Abano Terme, anche Rimini, Salsomaggiore, per citare alcune stazioni. Certo, la ringrazio. Anche le acque sulfuree sono molto indicate, però sul problema delle acque sulfuree c'è ancora in quest'ultima fase un po' di ripensamento, perché in un primo tempo venivano utilizzate con grande dispendio, perché l'idrogeno solforato è un'azione anticatastrale e quindi è un'azione estremamente positiva. Ultimamente qualche studio ci dice che bisogna andarci con una certa cautela. E infatti noi staremo proprio nel corso di questa trasmissione sulle evidenze, sulle prove scientifiche, come aveva anticipato anche Alessandro Pellizzari, perché ci sono, quindi è giusto sottolinearle. Andiamo un attimo a salutare Alberta, che ci chiama da Milano, prima di andare ai mercati. Alberta, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Innanzitutto le ringrazio per l'attenzione e io ho un quesito. Io sono in gravidanza e ho sentito opinioni discordanti sul fatto di non fare o fare le terme, quindi nel dubbio mi sono sempre astenuta. Sì. Voglio sapere, dato che tra un mese e mezzo partorisco, se posso approfittare in questo mese e mezzo a astenermi fino al parto. Certo, grazie per la bella domanda, Alberta. Dottoressa Fioravanti, dottor Bonsignori, volete dare una risposta? Vediamo se le vostre risposte coincidono. La dottoressa Fioravanti, che dice? Vediamo di sì, io direi che in gravidanza è meglio astenersi dal trattamento termale. Sì. Immagino che la signora intenda un trattamento termale esterno, quindi attraverso bagno, fanghi, e questo direi controindicato. Lei non la manderebbe. Sentiamo il dottor Bonsignori, magari invece un trattamento potrebbe ricorrere alla talassoterapia o ci sarebbero delle controindicazioni, dottore? No, la talassoterapia ha praticamente le stesse indicazioni, le stesse controindicazioni di tutte le altre, tutte le altre terapie termali. Quello che dice la dottoressa Fioravanti è assolutamente condivisibile, però in alcuni periodi della gravidanza, se non ci sono complicanze della gravidanza, se la gravidanza decorre in maniera fisiologica, effettuare alcuni esercizi in acqua anche termale, per esempio l'acqua appunto di talassoterapia, un'acqua salsobromoiodica, simile alle acque salsobromoiodiche delle terme non marine, non potrebbe non avere delle controindicazioni dirette e sotto controllo medico potrebbe essere anche praticata una balneoterapia con modesti esercizi in acqua. Alessandro, siamo ai mercati, se vuoi aggiungere mezza parola. Comunque so che ci sono dei bellissimi programmi post gravidanza di remisa in forma, dove è previsto anche l'arrivo e la cura del bambino. Per cui, siccome la signora penso abbia tempo e voglia appunto giustamente sfruttarlo, no, al meglio, forse lo potrà fare subito dopo, quindi magari aspetta e poi va alle terme e con si fa anche il suo bebè, un bel riposo. E prima di riprendere con il tema di oggi, vi ricordo, parliamo di terme. Se volete intervenire, 824 0024. Apriamo una parentesi sulla ricerca italiana, che sempre al lavoro e dà ottimi risultati. La notizia di cui vogliamo parlare porta la firma del premio Nobel Mario Capecchi e del dottore Eugenio San Giorgi, ricercatore dell'Istituto di Genetica Medica dell'Università Cattolica di Roma, che è in linea con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dottore, il vostro lavoro ha permesso di individuare nel pancreas alcune cellule che presentano alcune caratteristiche delle staminali, e quindi questo è sicuramente un passo avanti nella conoscenza di queste cellule, di cui si parla molto ma di cui ancora non si sa tutto. È vero, per fare un esempio, se noi avessimo la possibilità di vedere l'esercito dell'antica Roma in azione, volessimo capire da una fotografia fatta dall'alto chi sono i generali, nel nostro esempio le cellule staminali, o chi sono i soldati, nel nostro esempio le cellule che svolgono una determinata funzione in un determinato organo, potremmo avere, diciamo così, dei sospetti su chi è il generale, perché il generale è in una posizione più arretrata, più riparata, ha delle determinate caratteristiche, come ad esempio alcune insegne, mentre i soldati sono magari in prima linea. Quindi, dottore, mi scusi, voi avete praticamente visto queste cellule al lavoro e così avete capito il compito che svolgono. Esatto, noi siamo stati in grado appunto di seguire nel tempo quella popolazione, una popolazione di cellule specifica all'interno del pancreas, che pensavamo fossero semplicemente dei soldati, e in realtà per la prima volta siamo riusciti a dimostrare che quelli non sono solo soldati, ma sono, diciamo così, cellule che presentano caratteristiche molto simili a delle cellule staminali. Diciamo, questa è un po' la novità di questo studio. Dottore, quindi questo lavoro quali strade aprirà? diciamo così, che in parte allarga la definizione di cellule staminali, che non sono più soltanto la definizione classica un po' della cellula staminale generale che comanda, sta lì da una parte, ma anche di cellule che svolgono, abbiano una duplice funzione: svolgere una funzione specifica di organo e al tempo stesso avere caratteristiche di cellule staminali. Magnifico. In particolare vorremmo concentrarci poi sulla funzione, sulle caratteristiche di queste cellule, soprattutto perché molti ritengono, noi tra quelli, che le cellule staminali possono essere le cellule che vengono ad essere coinvolte nell'insorgenza dei tumori e della cancerogenesi. Dottor San Giorgio, un'ultima curiosità. Cosa significa per un ricercatore giovane lavorare con un Nobel? È stato veramente un'esperienza di una vita intera, soprattutto perché è una personalità, come ricercatore, come uomo, veramente straordinaria. Dottore, io la ringrazio, le auguro buon lavoro e ancora complimenti. Buona giornata. E noi ci rituffiamo alle terme. Io volevo però chiedere ai miei esperti, al dottor Bonsignore e alla dottoressa Fioravanti, di spiegarci rapidamente qual è il meccanismo d'azione che rende le acque termali, i fanghi, insomma i trattamenti efficaci. Inizierei dalle acque, dottor Bonsignore, perché funzionano? Ma le acque termali funzionano per due motivi. In modo particolare c'è l'azione aspecifica, perché le acque termali sono quasi sempre utilizzate con il calore, quindi c'è l'azione aspecifica del calore, e il calore ha un'azione molto importante, ha un aspetto analgesico, migliora la mobilità articolare per esempio, migliora lo spasmo muscolare, migliora l'iperemia locale, quindi migliora un flusso circolatorio locale, quindi migliorando il trofismo cellulare. L'azione aspecifica del calore, quindi anche poi della bagnoterapia, in questo caso del fango o della sabbia, poi vedremo anche le differenze, a questa azione si aggiunge anche l'azione specifica del mezzo termale che utilizziamo, se è un'acqua ricca di idrogeno solforato, o se è un'acqua ricca di bicarbonato, o se è un'acqua appunto salso bromo iodica. Quindi l'azione è duplice, c'è un'azione aspecifica nel caso della balneoterapia termale, dei fanghi termali, del calore, che ha un'azione molto importante, e un'azione invece specifica legata al mezzo. Alle caratteristiche anche delle acque. Mentre alla dottoressa Fioravanti vorrei chiedere, sempre se ci spiega con parole semplici, perché i fanghi sono efficaci, perché funzionano, che cosa vanno, come, qual è il loro meccanismo d'azione, sempre confrontandoci con gli studi ultimi della ricerca che si è occupata di dimostrare scientificamente i benefici termali. Certo. Guardi, credo che la medicina termale oggi stia veramente uscendo dall'empirismo, no? Sta entrando in una fase, diciamo, di scientificità. Per esempio, è stato dimostrato come i bagni o i fanghi possono ridurre i livelli di alcune sostanze, chiamiamole nocive, sì, perché sono sostanze che attivano i processi di natura infiammatoria o determinano per esempio una distruzione a livello articolare. È stato dimostrato, cosa importante, che i fanghi, i bagni, in particolare i sulfuri, per esempio, riducono i livelli dei radicali liberi dell'ossigeno, e tutti sappiamo quanta parte questi abbiano nell'insorgenza sia dei fenomeni dell'invecchiamento sia nel determinismo delle malattie. Ma guardi, aggiungo una cosa in più, una curiosità importante. È stato per esempio dimostrato che anche un bagno, in particolare i bagni per esempio sulfurei, riducono anche i livelli di alcuni fattori negativi sul sistema cardiovascolare, riducono i livelli del colesterolo totale, dei trigliceridi, riducono i livelli di un fattore estremamente nocivo che è individuato nella cosiddetta omocisteina. Quindi piano piano stiamo iniziando un cammino per spiegare come agiscono queste pratiche terapeutiche, che pure sono in pratica utilizzate da secoli. E tutto questo ci spiega perché l'efficacia di un fango, di un bagno, non finisce con il ciclo di trattamento, ma persiste anche nel persiste nel tempo. È come mettere un po', mi lasci passare il, mi passi il termine, il fieno in cascina, si fa scorta di benessere. Allora, Alessandro, tornerei per rispondere anche degli sms delle nostre ascoltatrici sulle acque termali amiche delle donne e quelle che vengono citate anche nell'articolo che viene proposto nel numero in edicola di Star Bene per curare o evitare la recidiva di alcune infiammazioni delle vie genitali femminili. Alessandro, se vuoi anche tu avere a disposizione i nostri esperti. Sì. Noi abbiamo parlato dell'azione farmacologica, perché così si può dire, c'è stato uno studio molto importante e molto vasto in Italia che ha provato che con le cure termali si abbassa l'ospedalizzazione, si abbassa il livello della cronicità di certe malattie. Si usano meno farmaci, questo è molto importante. E anche dal punto di vista ginecologico, molte delle affezioni di tipo cronico che non rispondono o che diciamo ciclicamente hanno ricadute possono. E volevo sapere appunto quali sono le acque più indicate in questo campo, soprattutto dottor per quanto riguarda le infiammazioni. Dottor Bonsignori. Sì, allora una precisazione. Quello che diceva il dottor Pellizzari è corretto e assolutamente condivisibile. Purtroppo il sistema sanitario nazionale non è ancora pronto a recepire queste indicazioni, perché noi sappiamo che secondo il sistema sanitario nazionale le cure prescrivibili e quindi rimborsabili per quanto riguarda l'apparato ginecologico sono soltanto per due malattie: una leucorrea persistenza, la vaginite cronica e una sclerosi dolorosa della perfide. Sì. Queste due malattie, che sono anche abbastanza rare da trovarsi, nascondono in realtà quello che invece c'è di bene e di meglio alle spalle, perché le annessiti, le algie pelviche, le cerviciti, le endometriti, le vaginiti croniche o subacute possono essere curate attraverso le cure termali. C'è proprio, come diceva il dottor Pellizzari, una sinergia farmaco-acqua termale. Oltretutto ci sono anche dei dati, si parlava di scientificità, anche qui abbiamo dei dati sperimentali e clinici fatti con colposcopie e con strisci vaginali, che dopo trattamenti termali con acque specifiche si riduce per esempio la leucorrea, si riduce la batteriuria, il trofismo delle vie genitali femminili migliora. Quindi, in quanto tempo? Dottore, io volevo chiederle due cose. In quanto tempo, rapidamente, sì. E che non, magari non sono tempi rapidi, e soprattutto quali sono le acque più indicate? Allora, perché poi abbiamo Guido dalla provincia di Ferrara che ci aspetta. Le acque più indicate sono le acque salzobromoiodiche, le acque sulfure, ma possiamo anche utilizzare le acque bicarbonate e anche certe acque oligominerali potoniche. Le salzobromoiodiche sono state utilizzate da sempre per la sterilità tubarica, sì. Salso maggiore, cervia, ischia, la talassoterapia. Queste hanno un'azione detergente, sedativa, antisettica e anche antinfiammatoria. Qui ci sono esperimenti su cavie che dimostrano appunto che queste acque hanno anche un miglioramento della contrattilità tubarica. Le acque sulfure, Saturnia, sì. Salice, Telese, che sono più indicate per le forme non secche, per le forme produttive, quindi dove c'è un'azione mucosa importante, perché hanno un'azione anticatarrale e detergente. Ecco. E siamo tornati insieme a noi il dottor Villani, buongiorno dottor Ribongiorno, dottore responsabile buongiorno. Dell'unità operativa di pediatria generale all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Dottore, posso portare il mio bambino alle terme? Magari avessi ancora dei bambini piccoli, perché io ormai però Alessandro Pellizzari, che ne ha di piccoli, è molto interessato. E per quali patologie, per quali disturbi? Allora guardi, senz'altro i bambini possano accompagnare i genitori che vanno alle terme, in base sempre al principio che laddove i genitori stanno bene anche i bambini stanno bene. Sul fatto che poi alle terme usufruiscano dei vantaggi che le terme possono dare, questi vanno sbagliati dal medico delle terme e dal pediatra in generale. Comunque sicuramente ci sono dei benefici per quanto riguarda alcune patologie cutanee, sì. E queste però è bene che le indicazioni vengano date da un dermatologo pediatra. E un'altra indicazione che sicuramente può essere data è quella che riguarda alcune patologie delle alte vie aeree, in particolare le sinusiti. Anche in questo caso i bambini possono trarre beneficio. Dottore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a tutti voi. Grazie, e andiamo finalmente da Guido che ci aspetta dalla provincia di Ferrara, l'ho fatto attendere. Buongiorno Guido, mi perdoni. Buongiorno. Che ci racconta Guido? No, lei è andato alle terme? Non sono mai andato. Chiedevo per mia moglie che ha una calcificazione alle spalle. Adesso sta facendo dei trattamenti, sta facendo, sì, delle infiltrazioni. Allora dicevo, dopo, se c'era qualche terme indicato, qualche trattamento, insomma, via. Grazie Guido, la dottoressa, prego. Fioravanti sarà contenta perché di questa domanda. Una calcificazione alla spalla dopo il trattamento, dottoressa Fioravanti, o magari in abbinamento ai trattamenti, potrebbe essere un'idea andare alle terme? E nel caso quali trattamenti? Fanghi? Solo fanghi? No, sicuramente io l'ho già accennato prima, la periartrite della spalla rappresenta una indicazione al trattamento con fanghi e bagni, e naturalmente al di fuori della fase infiammatoria, della, sì, fase in cui la paziente ha notevole limitazione e dolore, quindi prima giustamente il trattamento come è stato affrontato con le infiltrazioni credo di steroidi, poi in una fase successiva bene il trattamento termale, soprattutto secondo me se abbinato ad una idonea riabilitazione, ad un idoneo esercizio della spalla che può essere anche condotto nella piscina termale per esempio. Indicazioni precise per gli stabilimenti termali, direi che qualsiasi tipo di stabilimento termale con acque sulfure, solfate o salso bromo iodiche va sicuramente bene. Credo che determinante sia l'approccio integrato fisiochinesi-terapia e possibilmente in acqua termale. Allora, io ringrazio i miei esperti, noi adesso cambieremo argomento, ci collegheremo con l'Aquila, insieme al dottor Bonsignori dedicheremo poi una puntata approfondita sulla talassoterapia per farla conoscere più da vicino. Il dottor Bonsignori diceva è molto conosciuta all'estero, Alessandro qui se ne parla un po' meno. Tra l'altro per gli ascoltatori che ci stanno scrivendo dove ritrovare i centri per le cure ginecologiche, ricordo di fare riferimento anche all'articolo del numero in edicola di Star Bene. Dottor Bonsignori, signori, grazie per essere stato con noi, un ringraziamento anche alla dottoressa Fioravanti. Grazie a voi, buongiorno. Ci avete accompagnato alle terme per un viaggio di benessere e di terapia, è stato molto piacevole, grazie. E noi, come vi dicevo, ci colleghiamo con l'Aquila, perché in linea abbiamo il dottor Stefano Stewart, nefrologo. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dottore, la vita continua all'Aquila, nonostante le scosse, si cerca di tornare, si torna alla quotidianità, è il momento della ripresa, della ricostruzione. Questo è un obiettivo per il quale tutti si adoperano, cittadini, volontari, operatori, medici, proprio tanti suoi colleghi come lei, che in mezzo a mille difficoltà, immagino, lavorano per un servizio quanto possibile vicino a quello dei giorni precedenti il terremoto. Noi non ci pensiamo, Alessandro, ma ci sono malati cronici che nonostante tutto, nonostante il terremoto, certo, devono continuare ad avere le terapie adeguate. Il dottor Stewart ci parla infatti del servizio di dialisi che è ripreso subito dopo il terremoto per garantire ai pazienti di essere dializzati per loro e vita. Dottore. Sì, infatti è vero, guardi, però oltre il terremoto noi abbiamo un freddo la notte terribile, le tende sì sono uno strumento per ripararci anche se riscaldate, però sono freddissime, però dobbiamo continuare a lavorare, lei lo saprà, gli abruzzesi sono forti, come vengono detti anche gentili, però hanno una peculiarità, radicate la loro terra e dall'Aquila non se ne vanno, rimangono qui nonostante convivano con le macerie e quanto altro. E per questo noi ci siamo attrezzati, dopo che l'ospedale è stato dichiarato inagibile in alcune sue parti, sì, nel proseguire la dialisi sotto tenda, quindi abbiamo allestito una tenda di dialisi la prima volta in emergenza in Italia, dove dializziamo, dove abbiamo 10 posti letto. In questo momento abbiamo 32 emodializzate aquilani, viceversa altri 54 sono distribuiti, oggi ho fatto il calcolo, in 18 differenti centri dialitici italiani, la maggior parte però abruzzesi. Dottore, un grande lavoro. Le posso assicurare? Sì. Se c'è qualche nefrologo che sta ascoltando, che la cosa peggiore è stata quella di organizzare la dialisi in un periodo lungo, cioè tra una dialisi e l'altra in una distanza temporale maggiore, quindi assicurare la dialisi a tutti i pazienti del lunedì, che erano circa 48-50, organizzare pullman in un momento di emergenza, trasferire i pazienti nelle sedi più vicine che si rendevano disponibili ad accogliere i nostri pazienti. Guardi, si sono viste scene da guerra, proprio da guerra, nel mio campo, nel campo della dialisi naturalmente. Io le dico questo, per esempio, le posso raccontare un aneddoto che non mi era mai capitato in vita mia di assistere. Sì. Un paziente che per ipercalemia è andato in fibrillazione ventricolare ed è stato defibrillato col defibrillatore elettrico a vivo, paziente sveglio. Scene allucinanti, mai viste cose del genere, mai viste. Dottore, però io mi piace, sono contenta che lei sia intervenuto soprattutto per lanciare questo messaggio di ricostruzione. Ce la state facendo, siete tutti impegnati, sicuramente c'è stata questa gara di solidarietà e siete un esempio per tutti noi, ma dottore, io vorrei che lei rimanesse, se non deve scappare dai suoi pazienti, restasse con noi perché abbiamo in linea con noi una concittadina, la signora Lola. Buongiorno Lola. Buongiorno. Lei ci ha chiamato per raccontarci in diretta la sua fatica a riprendere una vita normale. Le scosse ripetute, Lola, noi le sentiamo da lontano, le vediamo, possiamo immaginarle, ma voi state vivendo sulla vostra pelle questa paura che si rinnova e quindi è molto destabilizzante. Lola, sì. La paura di tornare, di mettere la testa sul cuscino, mi diceva lei. È vero, sì, sì. È proprio la difficoltà di mettere la testa sul cuscino, perché è la posizione in cui ci ha colpito il terremoto, la scossa più forte, e quindi, come le raccontavo precedentemente, io preferivo, soprattutto i primi giorni, preferivo dormire in macchina, perché era comunque una posizione scomoda, o comunque non quella del letto tradizionale, perché mi faceva riposare di più rispetto a un letto con un cuscino che mi faceva ricordare comunque la scena di quella notte. Certo. Perché proprio ritorna tutto in mente. Ritorna tutto in mente, come sì, rivedere... Sì, sì. Come chiudere gli occhi, come io chiudevo gli occhi, o come chiudo gli occhi tuttora, mi rivedo comunque le scene di quella notte. In linea con noi abbiamo il dottor Paolo Aloisi, direttore dell'unità di neurofisiopatologia e centro epilessia dell'Aquila. Dottore, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottore, Lola ci racconta il suo disagio, la storia che tutti noi possiamo immaginare, ma che Lola descrive perché la vive sulla pelle. Sicuramente questo problema lei se lo sente raccontare, forse lo vive, immagino, anche lei come medico, perché i medici, prima di essere medici, sono degli uomini. Come state affrontando questo? Come cercate di far rimarginare queste ferite che vengono continuamente riaperte dalle scosse? Allora, guardi, due cose vorrei dire. La prima è che il nostro ospedale è stato in questa situazione, senza nessun preavviso, senza nessuna esperienza prima, meraviglioso nell'affrontare, nell'evacuare 350 persone che erano ricoverate quella notte, più 1.400-1.500 persone che sono arrivate nel giro di due ore in ospedale, e risolvere tutti i problemi prima che arrivasse la Protezione Civile. La Protezione Civile ha avuto l'enorme merito di arrivare in poche ore con grandi mezzi, 30 ambulanze, sì, 15 elicotteri, 2 aerei, insomma ci certo, ha permesso di girare ovunque tutto. Però l'altra cosa che volevo dire invece è che la signora ci ha raccontato meravigliosamente, come non potremmo fare noi, e come è scritto esattamente sui libri, che cos'è un disturbo post-traumatico da stress acuto. cioè un'evenienza che avviene quando si vive una situazione, certo, che mette in pericolo drammaticamente la vita e che in qualche modo determina. Dottore, mi scusi, vorrei rapidamente, io sono in chiusura, devo chiudere, a disposizione delle persone come Lola e di tutti i cittadini che hanno vissuto, che cosa avete messo in, c'è una tendopoli, un riferimento? Dal primo giorno nella nostra tendopoli ci sono 3 tende aperte dal Dipartimento di Psichiatria e dal gruppo SMILE, che è quello che si occupa dei disagi dell'adolescenza essenzialmente, ma che ha particolare esperienza e competenza per queste situazioni di stato d'animo acuto. Ci sono 2 telefoni a disposizione delle persone, ora non li do perché basta fare il centralino dell'ospedale per avere questi 2 numeri, ecco, con quindi... i quali mettersi a contatto, per avere un accesso a queste strutture che immediatamente danno soccorso e si attivano. Allora, noi ci risentiremo, dottore, noi ci risentiremo nel corso di queste settimane. Adesso devo proprio salutarvi, un abbraccio grande, saluto quindi il dottor Stefano Stuart, un abbraccio particolare a Lola e al dottor Aloisi per l'impegno e per il coraggio che ci stanno dimostrando. Buona giornata a voi. Grazie a lei, grazie anche a voi. A domani.